Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Buona serata da Valentina Furlanetto e da tutta la redazione di Radio 24. Questo è un omaggio a John Lennon e come è stato un omaggio quello che è apparso oggi su un muro di Roma nei pressi di Campo dei Fiori. È la nuova opera dello street artist Harry Greb e si vede questo Lennon, di cui ricorre oggi l'anniversario della morte, 40 anni, rappresentato come Babbo Natale, sotto la giacca una maglietta con scritto "They are not robots". Accanto all'artista c'è un robot con il logo di Amazon e il robot ha un cartello con scritto "Happy Christmas, Working Class Hero". Il riferimento è a questa, una delle canzoni più note di Lennon. A working class hero is something to be. E insomma abbiamo aperto con queste note, ma sono tanti i temi di oggi, perché oggi cos'è accaduto? Innanzitutto a Venezia c'è stata l'acqua alta e la città non se l'aspettava. Sono stati 138 centimetri di acqua che si sono riversati a piazza San Marco e hanno invaso anche la Basilica, e questo ha messo sotto scacco il MOSE, che non ha funzionato, vedremo perché. Poi c'è la questione Covid. In Italia la situazione va migliorando, ma i decessi sono ancora moltissimi. Tra l'altro sono morti altri 4 medici e vedremo proprio dalla Federazione dei Medici Italiani cosa sta accadendo. Andremo anche in Gran Bretagna, dove sono stati somministrati i primi vaccini. Questa è una buona notizia che dà speranza per il prossimo anno. E poi la politica, la riforma del MES, domani si vota in Senato, Italia Viva aspetta l'intervento di Conte prima di votare, quindi insomma ancora fibrillazioni nella maggioranza, anche se il Movimento 5 Stelle appoggia pienamente il voto di domani, quindi da quel punto di vista si è chiusa la partita. Infine la Champions con il nostro Dario Ricci, che sentiremo poi in collegamento, ma ora riepilogo delle notizie di oggi. La maggioranza disinnesca la mina del MES ed arriva con un compromesso al voto di domani in Parlamento. Aspetto le parole di Conte, avverte però Renzi. Covid, scende il tasso di positività, cala la pressione sulle terapie intensive, 634 le vittime. La situazione migliora molto lentamente, dicono dal Ministero della Salute. Speranza conferma le misure di Natale. Maltempo, Venezia di nuovo sotto l'acqua alta, danni alla Basilica di San Marco, polemiche per il mancato azionamento del MOSE. Calcio, la Lazio pareggia 2-2 col Bruges all'Olimpico nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League e si classifica agli ottavi di finale in campo Barcellona-Juventus. (349) 238-6666 per mandarci dei messaggi o dei WhatsApp. Allora è stato rinviato il Consiglio dei Ministri, che era previsto per questo pomeriggio, per continuare questo esame del recovery plan e della task force che dovrebbe attuare questi progetti. Ma la maggioranza guarda al voto di domani sulla riforma del MES. Si preannuncia un passaggio delicato, soprattutto al Senato, dove i numeri sono più sul filo, ma ci si arriva con un compromesso. L'accordo, spiegano fonti di governo, è soddisfacente per tutti i gruppi. Aspettiamo le parole di Conte, però, per firmarlo, avverte Italia Viva. Nella maggioranza restano le tensioni sulla recovery plan e salta il Consiglio dei Ministri previsto per il pomeriggio. Italia Viva non arretra e ribadisce il suo no alla task force che dovrebbe gestire i progetti finanziati con i 200 miliardi in arrivo dall'Europa. Renzi chiede di portare la questione in Parlamento e, intervistato dal TG2, minaccia una rottura. Se le cose rimangono come sono, noi voteremo contro. Insistere su una misura che sostituisce il governo con una task force significa una follia. Abbiamo mandato a casa Salvini per non dargli i pieni poteri, ma non è che i pieni poteri li diamo a Conte, eh? La maggioranza si ricompatta invece sulla riforma del MES e trova un'intesa sulla risoluzione che sarà votata domani in vista del Consiglio europeo di giovedì. Nel Movimento 5 Stelle rientra la fronda contraria alla riforma. Abbiamo trovato un punto di caduta, conferma la pentastellata Lezzi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul recovery fund e i veti di Ungheria e Polonia, il ministro tedesco agli affari europei Rota attacca i due paesi parlando di irresponsabilità, ma assicura che lavoreremo fino all'ultimo minuto della mezzanotte del 31 dicembre per trovare un accordo che tutti e 27 possano accettare. Siamo ora al capitolo sanitario, all'emergenza Covid. Dopo il rialzo di ieri, torna in linea il rapporto tra nuovi contagiati e tamponi, ma sarebbe un errore allentare le misure, avvertono gli esperti. Nuove tensioni però si aprono tra governo ed enti locali. Una curva che si abbassa, ma molto lentamente, che lascia ancora dietro di sé tantissime vittime. I dati delle ultime 24 ore, con quasi 15.000 nuovi positivi e 634 morti, in linea con quelli dei giorni precedenti, fotografano una situazione incerta, di diminuzione, sì, ma troppo lieve per allentare le misure, ammette Giovanni Rezza, direttore prevenzione del Ministero della Salute. Se allentassimo in questo momento, quando il numero di casi, quindi anche l'incidenza, molto elevata, decisamente faremo un errore. Con la morte di altri 4 medici diventano 237 i camici bianchi uccisi dal Covid e il quadro d'insieme preoccupa nella prospettiva di ulteriori mesi invernali, per cui l'Istituto Superiore di Sanità raccomanda il ricambio d'aria nelle case, un punto critico per la diffusione del virus. Sono inoltre le festività ad impensierire gli scienziati e a creare nuove tensioni tra governo ed enti locali. Dopo la regione Piemonte è l'Unione delle Province a chiedere alle esecutivo di consentire almeno gli spostamenti tra comuni limitrofi nei giorni di festa. Nel frattempo le restrizioni anti-Covid aprono un fronte anche con la Svizzera, che ferma da giovedì i treni con l'Italia per le difficoltà, spiegano, di far rispettare le norme, ma questo crea notevoli disagi per 5.000 frontalieri. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questi due punti toccati dal servizio ci sono delle novità. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato a Di martedì questa sera rispondendo a una domanda sull'eventuale revisione delle misure per i giorni del 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio in merito agli spostamenti tra comuni. Ha detto: le misure sono queste e le confermiamo, le norme restano queste. In questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili. Inoltre, riguardo alla regione Abruzzo, che senza il consenso del governo era passata dal colore rosso al colore arancione, il ministro Speranza ha detto: questa sera abbiamo chiesto al presidente di ritirare quell'ordinanza ed è chiaro che la porteremo di fronte al giudice. Inoltre, riguardo ai collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia, saranno interrotti, come sentivate, da giovedì 10 dicembre fino a nuovo avviso. Ha parlato questa sera dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la ministra, ha detto: la questione va risolta, ci siamo attivati con le società interessate, Trenitalia e Trenord, che non avevano comunicato al MIT la decisione presa. È prevista domani una telefonata tra la ministra De Micheli e la sua omologa e presidente di turno della Confederazione Elvetica, Simonetta Sommaruga. Da domani intanto la Basilicata riporta in classe gli alunni delle elementari e delle medie. In Campania invece potrebbero da domani tornare gli alunni della seconda elementare, ma sono sempre di più i comuni che prolungano la didattica a distanza anche per i più piccoli. Un'app per gestire al meglio la fase della vaccinazione anti-Covid. Questo è un progetto a cui lavorano commissario per l'emergenza e ministeri per mettere in rete distribuzione, somministrazione e tracciamento. Intanto però ci sono stati anche oggi problemi con un'altra app, l'app Io, che serve per accedere al programma cashback. Hanno superato quota 7 milioni e mezzo i download dell'applicazione Io, il principale strumento per gestire il cashback di Stato partito oggi, ma molti non sono ancora riusciti a caricare gli strumenti di pagamento personale e l'IBAN sul quale ricevere il rimborso del 10% previsto per i pagamenti digitali effettuati presso punti vendita fisici con un limite di 150 euro a fronte di almeno 10 transazioni da oggi e fino al 31 dicembre. Il programma ripartirà poi nel 2021. PagoPA, la società che gestisce l'app IO e il partner tecnologico SIA, non hanno ancora risolto i problemi che da ieri bloccano milioni di italiani. L'app esiste da tempo, serve per usare servizi pubblici e pagare tasse e bollettini, ma i sistemi messi in piedi per gestire il cashback non hanno finora retto il traffico generato. Un'alternativa è attivare il rimborso su ogni singola app collegata ai propri sistemi di pagamento, ad esempio l'app della carta di credito. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è da dire che in serata fonti di Palazzo Chigi hanno dichiarato che questi problemi di rallentamento sulla registrazione dell'app IO sarebbero risolti in 2-3 click. Secondo Palazzo Chigi, da domani basterà un click per registrarsi, insomma. Dobbiamo vedere chi sarà la prossima amministrazione. Speriamo che la prossima amministrazione sia l'amministrazione Trump, così ha detto il presidente Donald Trump, che ha risposto in una conferenza stampa sui vaccini anti-Covid a chi gli chiedeva perché non avesse invitato nessun esponente della futura amministrazione Biden. Poi ha rilanciato le sue accuse di elezioni false. Donald Trump ha firmato alla Casa Bianca un ordine esecutivo che garantirà la priorità dei vaccini agli americani prima che siano mandati all'estero. Il maltempo sta interessando l'Italia da nord a sud, fari puntati in queste ore in particolare su Venezia per il ritorno imprevisto dell'acqua alta. Per motivi che andranno chiariti, le barriere del Mose sono rimaste giù. Per 2 giorni il Mose aveva tenuto Venezia all'asciutto. Oggi si attendeva una punta di marea di 125 centimetri e non era previsto che le barriere si sollevassero, visto che in questa fase sperimentale il limite è fissato con una previsione a 130 centimetri di marea. Poi l'improvviso peggioramento causa il forte vento, le previsioni corrette al rialzo, quando ormai il Mose non poteva più essere sollevato, e nel primo pomeriggio Venezia si è trovata allagata, con grave danno per tutte le attività, le abitazioni e i monumenti, a cominciare dalla Basilica di San Marco, in condizioni disastrose, come spiega il procuratore Carlo Alberto Tesserin. Adesso vuol dire che noi abbiamo buona parte della basilica sommersa dall'acqua. Questa salsedine, che si aggiunge a quella che ormai arriva tutti i giorni, crea dei danni che non sono parametrabili ai danni che avevamo una volta. Noi non possiamo permetterci di continuare ad avere che salsedine corroda sistematicamente la Basilica di San Marco. Previsioni errate e fase ancora sperimentale del Mose hanno causato un danno incalcolabile alla città già messa in ginocchio dall'emergenza Covid. Per sollevare le barriere ci vuole largo anticipo, spiega il provveditore Cinzia Zincone. Bisogna emettere le ordinanze per la navigazione e convocare le squadre operative. Spiegazioni che però non saranno sufficienti a fermare l'ondata di malcontento che ha sopraffatto i cittadini. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Su questo tema torneremo più tardi, ma ora parliamo di calcio, perché questa sera la Lazio ha pareggiato col Bruges all'Olimpico nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League e si è classificata agli ottavi di finale. Ma è iniziata da poco Barcellona-Juventus in diretta. Per gli aggiornamenti, Dario Ricci. Buonasera, Dario. Sì, buonasera. Prima degli aggiornamenti celebriamo giustamente, come sottolineavi, l'impresa della Lazio che arriva agli ottavi di Champions League dopo 20 anni, 2-2 all'Olimpico. Col brivido, perché la Lazio va avanti al 12° con Correa, poi il pareggio di Vermeer dopo 3 minuti, al 27° il fallo di Mata su Immobile, lo stesso Immobile che trasforma il calcio di rigore, quindi Lazio avanti per 2-1 e anche avanti di un uomo al 40° per l'espulsione del difensore del Bruges Sobol. Sembra tutto fatto, ma al 76° in 10 con Van Aken un colpo di testa il Bruges trova il pareggio, e a quel punto ai belgi basterebbe un altro gol per qualificarsi. Proprio negli ultimi istanti colpiscono una traversa e quindi Lazio, che arriva con un po' di affanno come il sottoscritto, devo dire, agli ottavi. In campo invece al Camp Nou il Barcellona contro la Juventus, cioè Messi contro Ronaldo, ed è proprio Ronaldo che finora sta decidendo questa sfida con un calcio di rigore trasformato al 13°, il fallo di Araujo sullo stesso CR7, fallo veniale direi, ma fischiato e sanzionato dall'arbitro tedesco Stiller, dal dischetto infallibile CR7, quindi Juventus in vantaggio quando siamo al 17° di gioco per 1-0 al Camp Nou sul Barcellona. Grazie a Dario Ricci, con il quale ci aggiorneremo verso la fine della trasmissione di Effetto Notte per vedere come sta andando Barcellona-Juventus. Noi ci dobbiamo fermare per il traffico, subito dopo parleremo del MES e anche degli scossoni nella maggioranza. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Buonasera Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Barbara, domani si intersecano due temi che in queste ore, in questi giorni stanno facendo sommuovere la maggioranza. Insomma, ci sono delle fibrillazioni piuttosto forti. Si vota al Senato la riforma del MES, la maggioranza ha trovato l'accordo, però in qualche maniera si è messo di traverso Renzi, che in questi giorni ha fatto un po' penare Conte per in quanto riguarda invece il recovery fund, che sarebbe un'altra questione. Il Consiglio dei Ministri previsto per questo pomeriggio è slittato e l'attuazione del programma, dei progetti, del recovery fund è stata rinviata. A questo punto Matteo Renzi minaccia la rottura, ha detto che la struttura di Conte moltiplica le poltrone, ha anche buttato là un approccio diverso, una sessione ad hoc, ha detto, una specie di bicamerale, tanto che Tajani si è detto d'accordo, accetto la sfida, ben venga una bicamerale per trovare le soluzioni migliori, ha detto il rappresentante di Forza Italia. Che dobbiamo fare? Ci aspettiamo un voto negativo domani? Ci sarà un rimpasto a gennaio con un nuovo premier? Andremo addirittura a una bicamerale su questo? Allora, domani indubbiamente è una giornata complicata. Sul MES, cioè sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto salva stati, si è raggiunto un accordo all'interno della maggioranza, in particolare è rientrato gran parte del dissenso del Movimento 5 Stelle, dell'area cosiddetta degli ortodossi, che avevano firmato una lettera in cui si dicevano pronti a non votare la risoluzione di maggioranza. In realtà c'è stato, come ha definito la ex ministra, appunto anche lei dell'area di Battista, un punto di caduta, e che sostanzialmente significa che un nuovo rinvio, cioè loro domani voteranno una risoluzione di maggioranza dove si dice a Conte: benissimo, tu vai in Europa, però guarda che per approvare, perché il MES sia, la riforma del MES sia effettivamente approvata dall'Italia, deve passare per il vaglio del Parlamento, quindi a un successivo esame, e legano questo sì al via libera in Europa ad altri provvedimenti, la riforma dell'Unione Bancaria e anche la rivisitazione del patto di stabilità. Quindi vedremo, insomma. Però perché ho parlato di rinvio? Perché mi sembra questo il dato più importante, mi sembra che tutta questa partita si sposti verso gennaio, cioè dopo l'approvazione della manovra della legge di bilancio, e quando entreremo nel vivo del recovery fund, cioè quando veramente dovremo attrezzarci per essere pronti poi a utilizzare questi fondi, questi 200 e passa miliardi che dovrebbero arrivare dall'Europa. Al momento, come tu ricordavi, Renzi sta facendo un po' sfascia tutto, comunque minaccia di far saltare il governo. In realtà il malcontento io non credo che sia solo di Renzi, cioè Renzi fa molto rumore anche perché è... Sembra un po' la testa di ariete del PD, Renzi, in questo caso. Ma non solo del PD, secondo me anche di una parte significativa dei 5 Stelle, dei 5 Stelle, perché comunque la decisione di Conte di accentrare in una struttura che poi di fatto in cui questi super manager hanno, adesso vedremo poi quale sarà il decreto che uscirà con la norma sulla governance del recovery, ma sostanzialmente dava un potere molto forte sia al Presidente del Consiglio che a questi super manager che avrebbero poi di fatto gestito i progetti finanziati. Sì, e lui dice è una struttura parallela, non ha senso, esistono già i ministeri, in questa maniera si esautorano. Allora, diciamo che, no, volevo sottolineare una cosa, sì. Cioè ci sono delle ragioni per cui poi Conte ha suggerito questa strada, che non sono delle ragioni meramente di potere, come per esempio accusa Renzi e non solo Renzi. Cioè è vero che noi italiani, l'Italia, da decenni non è capace di spendere i fondi che le vengono regalati dall'Europa, che le vengono assegnati. Questo è un dato proprio storico, a prescindere dai governi centrodestra e centrosinistra, siamo un fallimento da questo punto di vista, siamo il fanalino di coda dell'Europa. E in effetti Gualtieri, il ministro dell'economia, ha detto, oggi era un virgolettato del Corriere, l'Unione Europea ritiene che la nostra pubblica amministrazione non sia adeguata a gestire un'operazione di questo tipo, come se ce lo chiedesse l'Europa di creare una struttura ad hoc. No, l'Europa questo poi ha smentito, ha detto che l'Europa non ha chiesto assolutamente nulla di tutto questo, perché ogni paese, come giusto che sia, si regola a suo modo, però non c'è dubbio, no? È come sul vaccino, cioè da un lato abbiamo i tedeschi che hanno già praticamente, ogni tedesco sa già quando si vaccina, dove e in che posto, noi invece ancora siamo in alto mare. E la stessa cosa è sul recovery, gli altri paesi sono già avanti. E cioè, noi siamo indietro. Ma non solo Francia e Germania, ma anche la Spagna, persino la Grecia, cioè sono più avanti di noi. Quindi è chiaro che noi in questo momento su di noi sono puntati gli occhi, perché siamo anche il paese che in assoluto, a cui in assoluto è stato dato in percentuale il maggior numero di risorse, proprio perché noi siamo stati più colpiti dal Covid. Però poi le risorse bisogna saperle spendere. Il rischio è che in questa lotta tra chi, come dire, attacca il Premier perché è troppo centralista, il Premier sfrutta appunto le lacune della pubblica amministrazione italiana, probabilmente anche per accentrare questo potere, il rischio poi è che le cose non vadano. Quindi per sintetizzare tutto questo, io penso che domani la maggioranza sfangherà il voto sul MES, penso che si farà un Consiglio dei Ministri se non domani sera, il giorno dopo, in cui si rappattuma questa decisione sulla governance, ma tutto in realtà è rinviato, cioè tutto è rinviato dopo l'approvazione della manovra, e quando appunto si dovrà decidere davvero che fare del MES e come gestire il recovery. Cioè, su queste partite penso i nodi che rimangono. Il governo si giochi tutto. Grazie a Barbara Fiammeri per essere grazie stata a con voi. Noi. Buonasera. E ora noi ci spostiamo anche fisicamente e andiamo a Venezia. Allora, a Venezia che cosa è accaduto? La città si è trovata sommersa da 138 centimetri di acqua oggi, il MOSE non è entrato in funzione. Il procuratore della Basilica di San Marco, Carlo Alberto Tessein, che avete sentito anche nel nostro GR, ha detto la situazione è terribile, siamo sott'acqua in maniera drammatica, se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle interne della Basilica. E c'è stato anche un allarme del provveditorato alle opere pubbliche del Nord-Est, che spiega che il MOSE non è stato azionato perché si alza quando c'è una previsione di 130 centimetri. L'allerta viene data 48 ore prima, quindi per un problema tecnico. Ma sentiamo cosa ha detto il sindaco Brugnaro. Il MOSE non è finito, non è ancora stato consegnato. Ci sono una serie di organizzazioni da mettere a punto e continueremo a farlo. Adesso stanotte abbiamo pensato con la Stiz, lei ha mandato gli uomini già adesso per chiuderlo a mezzanotte 40, dovrebbe esserci la minima. Aspettiamo e speriamo che appunto l'acqua cali, perché col vento forte rischia di non calare l'acqua. E quindi il MOSE verrà azionato questa notte a mezzanotte e 40. Il sindaco Brugnaro ha detto per attivarlo ci vuole del tempo, serve una previsione più lunga, dicevamo appunto 48 ore. Giovanni Cecconi, buonasera. Buonasera a tutti. Ingegnere, ex dirigente dei servizi informativi del Consorzio Venezia Nuova, ha lavorato per 30 anni al MOSE, del quale dirigeva la Control Room, si occupa di un'associazione ora no profit che ha come scopo la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. È proprio così, il MOSE ha bisogno di previsioni di almeno 130 centimetri per essere azionato e l'allerta deve esserci 48 ore prima, non si può fare, insomma, quando all'improvviso cambia il vento, cambia la marea, per cui la città viene sommersa? Le competenze tecniche ci sono tutte, ci sono tutti gli strumenti, semplicemente nella catena di comando le informazioni non sono arrivate al momento giusto. È vero, è una amara lezione per tutti, tutti abbiamo imparato, ma è importante che i cittadini sappiano e imparino anche loro, perché meglio quattro occhi che due soli, magari distratti da altre questioni che non attengono al servizio a cui uno è chiamato a svolgere. Cecconi, allora io vorrei raccontarvi che cosa abbiamo imparato. Sì, la faccio attendere un attimo perché vorrei sentire insieme a lei ancora il sindaco Brugnaro proprio sulla catena di comando. È cambiato il vento, c'è stato un vento di scirocco molto forte al largo dell'Istria, tutta la costa dalmata, e ha portato nel giro d'acqua, perché l'Adriatico è un giro d'acqua che sfiora la Trieste, viene giù per i nostri fiumi e arriva a Venezia. Ha portato un apporto di più di un metro di onda, e ha fatto sì che abbiamo dovuto cambiare le previsioni in corso di giornata. Le abbiamo alzate prima da 120, poi a 130, poi siamo arrivati a 138. Insomma, chiaramente bisogna essere più veloci nel poter reagire. Dobbiamo far sì, secondo me, che sia la città a dichiarare quando si deve chiudere o non chiudere, ecco, ma penso sia un discorso di organizzazione. Speriamo che anche il governo, le forze politiche capiscano che non c'è da parte nostra nessun tipo di polemica, è soltanto che dobbiamo accorciare molto la catena di comando, lasciare pure il commissario a fare, che sta facendo un ottimo lavoro a gestire il MOSE, organizzarlo eccetera, ma la gestione, cioè l'apertura, la chiusura, il coordinamento con le varie attività, credo spetti alla città, spetti alle forze che di fatto i cittadini. Tutto qua. La nostra regista Roberta Frisani mi faceva notare che in effetti l'audio era molto sporco, però lo sentivate anche voi, c'era proprio l'acqua, si sentiva l'acqua perché il sindaco era in città, stava cercando di risolvere il problema, e quindi l'audio è sporco perché proprio è stato preso in una situazione di emergenza. E Cecconi, il sindaco, diceva proprio bisogna un po' rivedere le regole della cabina di regia. Certo, ma... bisogna, non sono completamente d'accordo con quello che ha detto il sindaco, perché mancano, si contraddice alcune cose fondamentali per la valutazione dei rischi. Cioè, sappiamo che il rischio è il prodotto della probabilità che succeda qualcosa per il danno. Quindi alla scienza, alla tecnica spetta la valutazione della probabilità di accadimento, e ai decisori che sono in carica quello di moltiplicare quella previsione probabile per il danno atteso. Ecco, se viene meno questo processo, entriamo in uno schema paternalistico che ci riserva angeli e demoni. Chi doveva angeli decidere allora, Cecconi? E demoni quando, come oggi, non ci indovinano. Ma chi, quindi, deve decidere? Prima di tutto le procedure. Nessuno da solo può fare tutto, neanche se ha tutti i soldi del mondo e le capacità del mondo. Quindi la procedura decisionali che erano in atto non erano adeguate, evidentemente, bisogna perfezionarle. Io non voglio fare nessuna critica, voglio raccontarvi tranquillamente che cosa abbiamo imparato. Primo, è prevedibile la marea, ma non gli effetti del vento. Quindi non c'è sistema di previsione che possa mai riuscire a prevedere gli effetti del vento, specie in una situazione in cui si è in atto un cambiamento climatico con continue celle di pressione che non si erano mai viste per via del riscaldamento o dei miscolamenti di aria di diversa temperatura. Cioè l'atmosfera è più energetica, primo fatto. Allora non posso dire datemi più soldi per migliorare il sistema. A Venezia abbiamo quattro sistemi di previsione, fortunatamente, che si riuniscono nel centro maree, che raccorda ISPRA, che raccorda il CNR. Il Consorzio Venezia Nuova ha un proprio centro a cui io ho partecipato per oltre 30 anni, che conosco e che è al pari degli altri. C'è un buon dialogo, ma non c'è una regia unica, non c'è una sintesi. Quindi ci vorrebbe una regia unica. Purtroppo noi abbiamo pochissimo tempo a disposizione, Cecconi, ma abbiamo capito bene il suo punto, che è essenziale. Grazie a Giovanni Cecconi, ingegnere ex dirigente del Consorzio Venezia Nuova. Noi ci dobbiamo fermare proprio per il meteo e poi andiamo a parlare di Covid. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rimane elevato il numero di decessi perché nelle ultime 24 ore sono stati riportati 634 decessi, nelle 24 ore precedenti erano 528, quindi un numero che purtroppo rimane ancora elevato e sappiamo che questo è l'ultimo indicatore che tende a scendere una volta che la curva comincia a diminuire. Avete sentito il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza alla conferenza stampa sull'analisi di oggi della situazione del Covid che è organizzata al Ministero. Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Gianni Rezza dice che faticosamente la curva dei decessi scende un po' più velocemente, per fortuna scende la curva dei positivi. C'è questa singolarità dell'Italia, abbiamo un numero di vittime da Covid-19 molto alto, fra queste anche altri 4 medici oggi che fanno salire a 237 il numero dei medici che sono morti in servizio, mi viene da dire, una vera e propria strage che voi segnalate. Perché innanzitutto questo alto tasso di letalità in generale e che cosa si può fare per proteggere di più i medici, gli infermieri, il personale sanitario? Sì, la letalità è legata al numero dei contagi. E chiaramente nel nostro paese la situazione questa volta ha preso, come dire, una strada che è quella di differenziare per colori le varie regioni, ossia per tipo di restrizione. Se noi guardiamo e paragoniamo le vari tipi di colori, no? Giallo, arancione e rosso, vediamo che in realtà regioni in rosso sono quelle che hanno funzionato in qualche maniera, perché c'è stata una rapida riduzione del numero dei contagi e conseguentemente naturalmente si ha anche una riduzione del numero di morti. Invece nelle zone arancione questa situazione è un po' più persistente e quindi il processo di accelerare la riduzione del numero dei contagi avviene molto lentamente, insomma intorno al 9-10%. Quindi il problema sta in questo, anche perché poi anche il sistema della comunicazione che viene effettuata a seguito di questa distinzione prende una strada completamente diversa, e cioè come se si passasse, no, dalla rossa all'arancione, al giallo addirittura, come se fosse libertà assoluta. Quindi osserviamo che lì dove le regioni vanno verso il giallo la circolazione tra le persone aumenta, aumentano i contatti e questo non favorisce sicuramente la diminuzione della letalità, purtroppo. E per proteggere il personale sanitario cosa bisognerebbe fare in più? Stasera siamo a 238 perché se ne è aggiunto un altro purtroppo, quindi sale ancora il numero delle vittime. È un fenomeno molto particolare, noi, come dire, questa volta veramente non ce l'aspettavamo, perché nella prima fase il numero dei morti era legato al fatto che gli ospedali si erano trovati impreparati di fronte al Covid. E i nostri medici sono diventati inconsapevolmente, no, portatori anche della malattia e del virus, e quindi erano anche quelli che contagiavano, oltre ad essere sfortunatamente contagiati, e molti dei quali sono purtroppo anche morti. Invece nella seconda fase questo non ce l'aspettavamo, perché le misure di sicurezza negli ospedali sono stati adottati. Oggi, come dire, entrare in ospedale necessita di fare naturalmente un tampone per evitare qualsiasi problema. In genere i protocolli sono stati da tutti adottati e quindi la situazione doveva essere sotto controllo. Non v'è dubbio però che i turni massacranti, la stanchezza, il fatto di essere sempre lì presenti, lo stress di fronte a un numero esorbitante di persone che necessitano di essere trattate può portare anche ad un inconsapevole allentamento della tensione sull'applicazione delle misure di sicurezza, e questo può essere uno dei fattori. L'altro fattore è che noi vorremmo sapere invece dal Ministero è se tutti i dispositivi invece sono stati dati e se le misure di sicurezza sono state adottate da tutti gli ospedali. Una peculiarità invece in questa seconda fase è che il 50% dei medici deceduti sono medici di famiglia o pediatri di libera scelta, e questo significa che sul territorio la situazione sta diventando drammatica, perché sono tante le segnalazioni che ci dicono che i dispositivi non sono stati distribuiti in numero sufficiente o in numero adeguato o in maniera adeguata. Presidente Anelli, se la interrompo, purtroppo abbiamo un paio di minuti, volevo farle un'altra domanda. Quando sarà disponibile il vaccino? Lei si farà vaccinare? Avrebbe dei dubbi in questo senso? No, non ho nessun dubbio sul vaccino. Mi farò vaccinare e spero di essere anche tra i primi a farlo, come segno di così promozione della pratica vaccinale. Sono certo che gli organi di controllo che sono e di autorizzazione, sia quelli europei che quelli italiani, svolgono un ottimo lavoro in questo senso e quindi daranno le massime garanzie per somministrare il vaccino in piena sicurezza. Sentiamo allora il professor Andrea Crisanti, che ha parlato stasera sulla 7 proprio del vaccino. Penso che non è che siamo lenti, è che il processo regolatorio in Europa ha una temporizzazione diversa, segue quello americano che dovrebbe concludersi tra pochi giorni, e penso che sia un processo che analizza tutti quanti i dati con rigore, e gli inglesi hanno fatto una valutazione affrettata che tra altre cose è stata molto criticata dagli scienziati inglesi, e mi auguro che sia la scelta giusta. Crisanti parlava del vaccino, che la campagna di vaccinazione è proprio iniziata oggi in Gran Bretagna, le prime persone sono state vaccinate. Tra l'altro poco fa il ministro della Salute Speranza ha detto: quando sarà disponibile il vaccino sono disponibile a farlo in pubblico, credo moltissimo in questi vaccini. Noi proprio del vaccino e delle vaccinazioni in Gran Bretagna andiamo a parlare tra pochissimo. Io ringrazio Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri. Grazie a voi per l'ascolto. E allora, lo dicevamo, parleremo del vaccino in Inghilterra. Tra pochissimo è stata vaccinata per prima una signora novantenne, il secondo vaccinato ha un nome simbolico, William Shakespeare. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. You know, it's been such a tough year for so many people, and we've still got to get the vaccine to millions of people, and so we've got to keep sticking by the rules. But you know, there's so much work gone into this, and I'm really, really, it makes me proud to be British. Sono così fiero di essere inglese, dice il segretario di Stato alla Salute e agli Affari Sociali Hancock, che è intervenuto commosso in questo programma televisivo oggi che è partita in Gran Bretagna la vaccinazione di massa. Buonasera Giorgia Scaturro, corrispondente da Londra. Buonasera. Giorgia, abbiamo visto questa signora novantenne a cui è stato fatto il primo vaccino, il secondo un signore ottantenne, insomma una campagna importante che ha suscitato anche qualche polemica, perché la Gran Bretagna ha fatto uno strappo, una vera e propria Brexit sul vaccino ed è andata avanti rispetto all'Europa, no? Sì, diciamo che ha avuto l'ardore di accorciare i tempi per l'approvazione senza evidentemente bypassare la sicurezza, ma è stata la prima ad approvare questo vaccino di Pfizer e BioNTech, quindi sì, un orgoglio britannico, perché da oggi i primi britannici, tra cui appunto William Shakespeare, sono i primi ad aver avuto questa iniezione, però ricordiamo che è uno sforzo globale, il vaccino che è entrato oggi in una massiccia campagna di vaccinazioni è prodotto dai colossi americano Pfizer e anche quello tedesco BioNTech, ed è confezionato in Belgio, quindi sì, un orgoglio britannico, ma uno sforzo tutto mondiale. E una sfida logistica senza precedenti, a cominciare dalle difficili condizioni di stoccaggio di questo medicinale, che va conservato in refrigeratori a circa 80 gradi sotto zero. Come ha fatto la Gran Bretagna a organizzarsi in così breve tempo? Ebbene, la Gran Bretagna sta ricevendo dei pacchi di 975 dosi di vaccino, che appunto, come ricordavo prima, vengono confezionati in Belgio, vengono ovviamente stoccati a temperature glaciali, e questo è un po' anche il problema, perché i 70 ospedali in cui al momento vengono distribuiti devono fare in modo che non ci siano delle rimanenze che potrebbero poi essere perse, quindi l'apertura di un pacco devono essere subito somministrate in loco all'ospedale, nonostante i primi ad avere diritto al vaccino siano i pazienti delle case di cura. Ecco, con che criterio vengono somministrati questi vaccini? Chi sono i primi? Immagino le forze dell'ordine, gli operatori sanitari, oltre che le persone che stanno nelle case di cura. Diciamo il criterio è i primi in lista sono gli anziani delle case di cura e il personale delle case di cura, seguiti appunto dagli ultraottantenni, le persone vulnerabili, e poi il personale sanitario e quello che sta in prima linea nella lotta al Covid. Diciamo che i tempi sono molto lunghi per la somministrazione, perché la Gran Bretagna ha al momento 800.000 dosi che coprono 400.000 persone, perché il dosaggio richiede un richiamo a distanza di 21 giorni e si pensa e fine dell'anno di arrivare a vaccinare 4 milioni di persone. Insomma, un po' poche, sì, bisognerà andare avanti mesi e mesi, un po' come faranno gli altri paesi in Europa. È su base volontaria, e che tipo di accoglienza ha avuto questo vaccino? O meglio, nei sondaggi cosa si dice? I cittadini britannici si vogliono far vaccinare? Allora, i sondaggi sono buoni, più della metà dei britannici ha dichiarato che farà il vaccino, di volerlo fare, questo anche un po' per una grossa campagna mediatica che si sta facendo, addirittura la regina Elisabetta dovrebbe mostrare il momento in cui lei stessa si vaccina. Bisogna essere invitati a fare il vaccino, quindi sono i medici curanti che redigono la lista delle persone che hanno i criteri per farlo, e quindi da lì poi si potrà decidere se farlo o meno. Però ripeto, al momento pare che la maggior parte dei britannici si sia convinta. Oggi anche l'appello di Margaret Keenan, questa nonnina di 90 anni che si è rivolta al mondo dicendo se lo faccio io, potete farlo anche voi. Che la signora, la prima vaccinata, la novantenne. La prima vaccinata alle 6:31 questa mattina. Grazie Giorgia Scaturro. A voi, buona serata. E ora noi passiamo a parlare di sport. Avremmo voluto commentare con voi le partite, ma purtroppo non è soltanto questo quello che accade in campo. Allora, l'audio che state ascoltando è stato preso da una partita che è stata sospesa tra Paris Saint-Germain e Basaksehir, sospesa per razzismo. A determinare il clamoroso stop della partita di Parigi sono stati gli stessi giocatori che hanno abbandonato il campo dopo che un giocatore del club turco ha accusato il quarto uomo di frasi razziste. Dario Ricci, bentornato. Sì, eccoci qua. Tutto è avvenuto intorno al sedicesimo del primo tempo. Valentina, quando il vice allenatore del Başakşehir, Webo, è stato espulso dall'arbitro romeno Ategan per aver protestato. Il tecnico accusava appunto il quarto uomo, il romeno Coltescu, è una quaderna romena quella che dirige la partita fra Paris Saint-Germain e il Başakşehir, di rivolgersi ad alcuni suoi giocatori con l'epiteto appunto di Black Guys. A quel punto, nonostante la discesa in campo di Leonardo, il direttore generale del club parigino, ex interista e milanista, i giocatori, anche quelli del Paris Saint-Germain, hanno deciso di abbandonare il campo e la partita al momento risulta temporaneamente sospesa. Chiaramente vi aggiorneremo se e come e quando dovesse riprendere. E interrotta, ma fortunatamente solo perché nell'intervallo, anche Barcellona-Juventus, parlando di cose di calcio giocato, con la Juventus che è in vantaggio per 2-0 al Camp Nou. Al 12° il calcio di rigore di Ronaldo per fallo sullo stesso CR7 di Araújo, e poi al 20° il bel cross al centro area di Cuadrado a rifinire una bella azione corale della Juventus, a concludere McKennie con una mezza girata di destro al volo e a siglare il 2-0. Finora poche notizie di Messi, un paio di conclusioni in realtà da parte della Pulce Blaugrana, attento in entrambi i casi Buffon. Chiudo ricordando che già qualificata agli ottavi è la Juventus, che però in caso di vittoria per 3-0 o per 3-1 potrebbe essere addirittura prima nel girone, e si è qualificata nella gara delle 18:55 anche la Lazio grazie al 2-2 casalingo contro il Bruges. Lazio seconda nel gruppo vinto dal Borussia Dortmund, che stasera ha battuto lo Zenit San Pietroburgo per 2-1. Grazie a Dario Ricci che ci ha dato l'aggiornamento sul Juventus e Barcellona e ci ha anche spiegato che cosa è accaduto in campo, la sospensione di questa partita per razzismo. Come abbiamo detto, a Parigi sono stati gli stessi giocatori che hanno abbandonato il campo. E questa era l'ultima notizia, l'ultimo collegamento per questi 60 minuti di notizie insieme a voi. Io ringrazio in regia Roberta Frisani, in assistenza tecnica Jacopo De Franchi e in redazione Alessandro Schirano. Ringrazio anche tutti voi per l'ascolto. L'appuntamento con le notizie è fra pochissimo, perché ribadiamo i titoli. Da Valentina Furlanetto è tutto, buona serata.